vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 9 di Topolino di città e ratto di campagna. Stavolta ho ribaltato il titolo perché sempre prendermi i pesci in faccia io. E che cavolo. Vabbè, torniamo come nell'originale. Ratto di campagna, Topolino di città, che è il programma di Radio Big World che esplora il mondo delle grandi città, della grande città, delle capitali, della capitale. E noi, modestamente, vicino a una capitale, una città che è stata capitale di Stato, è stata capitale d'Italia e oggi è capitale barra capoluogo della regione da dove parliamo e che è la Toscana e che si riconosce dalle nostre C un po' aspirate. Questo programma non esisterebbe se ci fossi solo io che sono il ratto di campagna e che di città e di capitali ne so ben poche, anzi a scuola, a geografia ero piuttosto uno zuccone, pertanto abbiamo necessità di parlare con qualcuno che in città ci è nato, che in città ci ha vissuto tutta la vita e pertanto la nostra Beatrice nel mondo metropolita, ecco lei che, mentre noi mandavamo ancora i telegrammi con l'alfabeto Morse, lei c'aveva l'iPhone 1000. Laura! Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Laura, grandissima, oggi una puntata che ho particolarmente a cuore, diciamo pure a stomaco, diciamo pure a fegato, e cioè parleremo di vino e di alcol a Firenze. Un argomento spinoso perché i vostri sindaci, tanto quello di ora come quello di prima, più di una volta sono intervenuti per cercare di mettere delle pezze, almeno secondo loro, a quello che era l'attività del bere e che poi i vari sindaci della Toscana, quantomeno del comprensorio, hanno seguito, anche se magari non rispettano alla lettera. E dunque, i sindaci che si muovono, i giornali che fanno i titoloni sul consumo di alcol a Firenze. Appunto, ma come si consuma quest'alcol a Firenze? Carissimo, allora metto subito le mani avanti, io sono praticamente astemia, ora sono anche un po' raffreddata, mi ci vorrebbe una bella grappa, forse mi farebbe bene, oppure quando mi fa freddo, no, a tavola mi dicono beviti un po' di vino, ecco, insomma, non gradisco molto, quindi non so se riuscirò a darti suggerimenti e dritte anche in questo caso, ma farò del mio meglio lo stesso. Allora, a tutti piace bere, no? La maggior parte delle persone. Questo mi sa che è un dato di fatto, io sono un po' un'eccezione. Quando ti affaccia al mondo dell'adolescenza, dai, bevi per forza, anche se non ti piace, ma devi provare qualche cosa di alcolico. Anzi, forse ecco, la prima differenza che mi viene in mente è che voi vi affacciate al magico mondo dell'alcol ancora prima dell'adolescenza, o sbaglio? In qualche modo i nostri genitori, le nostre famiglie cominciano a farci assaggiare un po' di vino o un po' di birra, diciamo già in età adolescenziale, preadolescenziale, vero? Quindi secondo me noi arriviamo un po' più tardi di voi, perché appunto anche mio nonno alla figlia della mia cugina aveva fatto assaggiare il vino, guarda, non ti dico neanche quanti anni aveva la bambina, lasciamo stare, Allora io a volte dico a battuta, me lo dovevate far assaggiare anche a me presto, così almeno mi abituavo, perché insomma alla fine non mi è mai piaciuto questo alcol. Però anch'io, come tanti ragazzi, insomma, alle prime uscite, le prime volte che uno esce la sera, se si affaccia al mondo notturno, insomma, qualche cosa beve. E è quasi obbligo provare. Poi c'è chi gradisce sul serio e chi si sforza più per socialità che per altro. Ma Laura, in Inghilterra è sconvolgente vedere come a bere ci sia gente di tutte le età. Una delle mie vacanze in Inghilterra, nel posto più inglese che mi venne in mente di cercare, e infatti all'epoca della non globalizzazione eravamo praticamente gli unici europei nel raggio di chilometri, in questo posto nonne che bevevano, gente che avrà avuto più anni di mia mamma, ubriaca stesa per la strada, delle scene da raccapriccio. Si vede questo anche a Firenze o no, bere no, è una questione di fasce d'età? Sì, più di fasce d'età, dai. Ci sono anche le persone anziane che bevono ma non si ubriacano. Un bicchiere di vino rosso è spesso annacquato, i nostri nonni lo bevono, dai, ma non si ubriacano. Bevono l'alcol per il sapore dell'alcol, non per le conseguenze devastanti a cui vanno incontro magari le nonne inglesi o irlandesi. E fondamentale qui non è tanto fra Valdarno e Firenze, diciamo che è fra l'Italia e il Nord Europa. Anch'io in Nord Europa ho visto veramente di tutto, di più, intere famiglie ubriache su questa nave che andava dalla Svezia alla Finlandia perché era Porto Franco, mentre invece in Svezia non potevi bere se non dopo aver fatto una fila di non so quanto con il bigliettino anche per prendere una semplice birra. Ecco, lì approfittavano di questo Porto Franco che era la nave in acque neutre che vendeva alcolici di tutti i tipi, e lì ne vedevi di tutti i colori. No dai, non a Firenze, siamo più morigerati. Quindi le preoccupazioni dei sindaci e dei moralisti vari che sui giornali riempivano le colonne parlando di tragedia nazionale, di alcol che scorreva a fiumi, in buona sostanza, al di là della retorica e della politica, si preoccupavano più dei giovani o degli adolescenti. Sì, secondo me sì, era un allarmismo eccessivo. Poi abbiamo anche già parlando di gente, di movida, insomma ci sono sì delle zone di Firenze in cui l'alcol girava anche troppo, soprattutto fra i turisti americani. Il fiorentino si limita, dai, su. Poi non è che ama molto spendere in alcol, perché deve fare anche conti in tasca. Invece magari per i popoli nordici, cioè per gli americani, è normale spendere in una sera quasi uno stipendio, offrire da bere a tutti. Il fiorentino è un po' più tirchio secondo me, quindi anche questo incide. Era un vecchio trucco delle compagnie minerarie inglesi che erano proprietarie non solo della miniera dove lavoravano i minatori, ma anche del pub locale, e pertanto quelli gli rendevano paro paro lo stipendio. E a Firenze, quando si esce, quando si beve, quando ci stanno i soldi in tasca, quando si fa i conti, fiorentini, banchieri, che cosa si beve in particolare? Che cosa è cittadino bere? È cittadino bere il cocktail all'aperitivo, sì. una moda ereditata da Milano, dai. All'aperitivo il cocktail o anche dopo cena. A cena il classico vino rosso. E tra i cocktail, quali sono quelli più cittadini, più gettonati, o quelli che se si va lì il barista dice subito questo è della provincia? Ce n'è qualcuno? Ma non saprei, secondo me un Sex and the City, un vodka lemon sono più richiesti dai fiorentini, mentre invece un Negroni può essere richiesto da uno del Valdarno. D'accordo, tra l'altro ho un amico che è per metà bresciano e per metà valdarnese, ha vissuto per molto tempo a Firenze, ci ha studiato, e lui ha notato questa cosa, e cioè lui riconosceva i valdarnesi a Firenze dal fatto che quando ordinavano, anche se erano con dei fiorentini, mentre tutto intorno giravano sti cocktail e i Moscow Mule come se piovesse, il valdarnese solo vino o solo birra. Sì, anche io gli darei ragione. Al bar, no? allora, il bar lo colloco più, cioè ovviamente c'è il bar di città, c'è il bar di paese, però il bar di paese forse è più frequentato da degli abitué, e quando sì, vedi questi assidui frequentatori di bar non li vedi mai coi cocktail, dai, li vedi col vino, con la birra, quindi forse è un'abitudine ereditata al bar. Quindi i briachi di città, in buona sostanza e con grande rispetto, essenzialmente si riconoscono perché hanno vino, birra in mano, come i valdarnesi, che in effetti un po' briachi lo sono. Tra l'altro, una cosa che ho notato a Firenze, ma qui dimmi se sbaglio, nei posti alla milanese dove si fa l'aperitivo, essenzialmente il valdarnese è quello che si riempie il piatto di più e se lo riempie più volte. Hai notato anche tu questa caratteristica di noi un po' provinciali? Forse sì, però secondo me lo facciamo anche noi. Magari stiamo più attenti a non farci sgamare. Ma dai, ma perché non farlo? Alla fine, cioè, paghi da bere, mangiare è limitato, allora dai, approfittiamone. Quindi abbuffarsi al buffet, ma con savoir-faire, che noi, esatto, in provincia si vede l'abbondanza, ci si butta subito a pesce. Un'altra caratteristica della provincia, non lo so se è della provincia, ma insomma qui da noi USA, essenzialmente quando si viene invitati a casa a una cena, si porta con noi almeno una bottiglia di vino. Dico almeno perché in certi gruppi che frequento, e pensate un po' come sono lontano dal bel mondo di Laura, come minimo si porta una bottiglia, dopodiché si porta anche un'altra cosa. Però la bordolese a testa che ci sia e non manchi. A Firenze come funziona? Firenze anche si porta il vino, però può anche essere solamente quello. Dipende magari dal tipo di vino, dipende dall'amico che ti ospita. Cioè, se vieni da me, caro, lo sai, mi puoi portare anche un vino da 2 euro. Vabbè, te non bevi! È inutile, mi porti la bordolese da 50 euro. Però ecco, io so da chi vado, no, a cena, quindi porto magari un vino di qualità, e allora basta quella. Se porto un vino più scadente, magari porto anche un dolcino, così per non fare brutta figura. D'accordo! Ma lo sai che poi una bottiglia di vino portata a casa è uno dei regali che si ricicla di più. Ah sì? Molto, è perché molto spesso chi ospita dice: no, guarda, grazie, la metto lì, ce l'ho una bottiglia di vino per stasera. Se ci fa caso, molto spesso la bottiglia che viene portata dall'ospite viene messa un attimo da parte. E allora, quando capita una cena all'improvviso, una cena per la quale non siamo preparati, non abbiamo niente, c'è sempre una bottiglia che abbiamo lì pronta. Dai, vabbè, ti porto quella, va, meno male ce l'ho. Insomma, bisogna stare attenti a quelle bottiglie di vino che si portano casa per casa, a non riportarle a chi ce l'ha già portata. Quindi, in buona sostanza, le cantinette che si trovano nelle case dei fiorentini hanno vino riciclato, mentre da noi sono un vanto, vedi? Sono stato qui al castello tal dei tali, ho comprato queste bottiglie da voi, dice, ma manco mi ricordo chi me l'ha portata. Hai fatto una osservazione interessante, e cioè non è tanto una questione tra Valdarno e Firenze quanto tra Italia e Nord Europa, e sappiamo un po' per esperienza, un po' perché abbiamo viaggiato e ormai con la Ryanair hanno viaggiato praticamente tutti, che fuori dall'Italia il bere e il bere certe robe che bevano altrove, insomma, dà effetti spesso indesiderati. Gli inglesi spaccano i bicchieri e si danno i cazzotti, i russi che pigliano la macchina e battono contro i paletti, e chissà quante altre, a volte ci scappa pure il morto. Un amico mio dice: ma per forza, alla fine non la reggono. Bene, il fiorentino quando beve la regge, come gli piglia? Alla fine l'immagine di Benigni che saliva sul palco, fiasco di vino, se lo beveva durante lo spettacolo, e lo spettacolo era totalmente improvvisato e a braccio. Gli piglia bene come prende a Benigni ai fiorentini? Sì, dai, forse perdono i fiorentini un po' della loro chiusura e interagiscono un po' più con gli sconosciuti, diventano più aperti, più simpatici. e più socievoli. Questo è il primo step di ubriachezza. Poi ecco, quando esagerano, ma un po' come tutti, insomma, gli ci vuole magari, non lo so, qualcuno che gli regga la testa. Però mi ricordo un mio amico, sì, fra un conato di vomito e l'altro, però aveva tipo dei momenti di lucidità e diceva quanto voleva bene a tutti, quanto voleva bene alla sua fidanzata, ai suoi amici. È stato un momento abbastanza romantico, nonostante il contorno da ubriaco. Quindi per il turista che viene a Firenze e che passa una notte brava a Firenze, non troverà i fiorentini con la chitarra a stornellare sulle scale di qualche chiesa senza facciata. Ma perché no? Perché no? Potrebbe anche trovarli, dai, d'estate, sì, alla fine che stiamo più all'aria aperta, in santo spirito lo puoi trovare. Ok. E allora, per aiutare chi è desideroso di fare notti brave a Firenze, ma non sa dove sbattere la testa, i briachi a Firenze dove stanno? Dove si concentrano? Ci sono dei posti dove più allegramente si menano oppure si abbracciano e cantano We Are The World? Allora, devi vedere... Vabbè, innanzitutto te l'ho detto, la fascia d'età, per esempio gli studenti che sono particolarmente sensibili al risparmio vanno o andavano, adesso sono, non lo so, se esiste sempre, in un pub vicino Novoli dove l'aperitivo costava particolarmente poco, cioè c'erano cocktail veramente super scontati, tipo il giovedì, no? queste offerte, e allora lì qualcuno anche squattrinato si poteva ubriacare veramente con soddisfazione. C'è per esempio il ristorante spagnolo in centro dove bevi il sangria a fiumi, allora anzi citiamo anche la Spagna perché abbiamo detto del nord Europa, ma insomma anche Spagna non scherzano, magari insomma in modo diverso, in modo più festaiolo e meno molesto, però si ubriacano molto, quindi infatti mi è venuto in mente questo ristorante spagnolo. E fuori bottiglione! E il bottiglion, che prima io di passare diverso tempo in Spagna non sapevo cosa volesse dire, quindi questo portarsi le bottiglie fuori e bere in piazza, cioè secondo me è molto meglio stare all'aria aperta, ci vuole sempre il decoro, ci vuole anche l'accortezza di buttare le bottiglie poi nel cestino, perché il problema del bottiglion... Sindaco... Infatti il sindaco poi ci avrebbe ragione, no, in questo caso, però dai, è più bello l'uomo allegro in piazza anziché chiuso in un pub che magari nessuno può ascoltare le sue esternazioni. Con gli uomini più che le donne sono divertenti da ubriachi, dai, no? Abbastanza. Benigni, che beveva il vino sul palco e improvvisava, in quel fiasco aveva non un vino qualsiasi, ma un vino molto particolare che è il Chianti. Ora, io non sono un enologo, sono solo un ubriaco, quindi semplicemente lo bevo senza rendermi conto quello che c'è dentro, ma se si guarda i libri di professori e professoroni, in base ai polifenoli dell'olio, dell'essenziale, dello zucchero, del CO2, non lo so, il Chianti ha questa caratteristica di rendere loquaci e di rendere particolarmente creativi e poetici. E a Firenze si beve il Chianti mica così perché è una moda milanese, ma perché il Chianti è in provincia di Firenze almeno un pezzo. È un posto meraviglioso, un posto che è diventato mitico nell'immaginario collettivo, tanto per il buon bere e il buon mangiare, quanto per le bellissime località che lo contraddistinguono. C'è naturalmente provincia di Firenze e provincia di Siena, in provincia di Siena le tasse sono la metà, questo lo ripeto per noi campagnoli. Qual è, Laura, il rapporto che c'è tra Firenze e il Chianti, tanto il vino quanto la zona geografica che quel vino produce? Vabbè, con la zona geografica c'è un bel rapporto in primavera e estate per andarsi a fare la scampagnata, in inverno insomma stiamo meglio in mezzo allo smog che ci scalda. Il vino ovviamente è buono, poi vabbè io da ignorante dico ma è un Chianti, e chi se ne intende dice vabbè c'è Chianti e Chianti, no? Non possiamo mica fare sì. Di tutta l'erba un fascio, c'è Castellina, c'è Panzano, No, ma come anche tipo di vino, no? Quante ce n'è di Chianti? Tantissimi. C'è anche tante fregature. Però ne andiamo fieri, ovviamente, soprattutto se usciamo dalla nostra regione. E tu al tuo amico bresciano che vino gli porti? Dai, gli porti un Chianti. Chianti, cioè, Chianti tutta la vita. Tutta la vita, no? Cioè, ne vai orgoglioso della sua toscanità e quindi lo vuoi... vuoi trasmettere anche agli altri, non è che vai dal tuo amico bresciano e gli porti, che ne so, un vino piemontese, che senso avrebbe? Quindi, come tutte le cose nostre, ne andiamo orgogliose e le dobbiamo diffondere. Qualche settimana fa è capitato con un altro gruppo di provinciali per fare una provincialata di essere a Rimini, di essere in un bar e chiedere che vino c'hai. C'ho il Sangiovese, questo è il Chianti, Chianti. La gente mi ha fischiato, che si viene qui a bere il Chianti. Ragazzi, qui non è questione di sapore, è questione degli effetti. E pertanto in una Firenze con un sindaco che suona il violino in piazza Santo Spirito dopo un bicchiere di Chianti, sale, no, non c'è il sindaco, anzi tra un po' mi rabbia e mi cancella l'atto di nascita. Non lo nominare troppo, dai. Laura, grazie delle tue preziosissime indicazioni. Adesso sappiamo più o meno come orientarsi nel mondo della movida fiorentina e nel mondo delle briache fiorentine, che certe volte sono addirittura epiche. Grazie Laura. Grazie a te. Grazie anche agli ascoltatori di Radio Big World, che... alla prossima. E beh, e se non vi è venuta voglia di farvi un bel bicchiere di Chianti, beh, andate ora a farvelo. Alla prossima, fiorentinata!